Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. Oggi 23 aprile, dunque tra il 21 aprile e il 25 del mese a Bologna si respira aria di resistenza, perché il 21 aprile, ricordiamo, fu liberata la città di Bologna dall'oppressione nazifascista e il 25 poi la festa nazionale della liberazione. E quindi a questo episodio grande e importantissimo che ha dato le fondamenta della Repubblica Italiana e della Costituzione, noi dedichiamo questa trasmissione proprio parlando della nostra Carta Costituzionale, con due realtà. Una è una mostra che parla delle madri costituenti, una mostra prodotta da Stella Alpina, che è un'associazione di Novara che tratta molto la resistenza, in particolare nelle scuole, una mostra che parla appunto delle donne partecipanti alla costituente, che poi hanno dato le basi della nostra Repubblica. Il secondo segmento della nostra trasmissione invece parla dei vignettisti per la Costituzione, una realtà di tantissimi vignettisti che producono materiale visivo in difesa della Costituzione stessa e delle libertà civili e politiche in questo paese. Ne abbiamo parlato con Luisa Marchini, che è promotrice di questa realtà. Quindi, dopo lo stacchetto musicale, la parola a Pietro Beldì nell'intervista di Morena Moretti per raccontare la mostra Madri Costituenti. Buongiorno Piero Beldì. Buongiorno. L'Associazione Culturale Stella Alpina, di cui tu fai parte, ha realizzato una mostra per noi molto importante, per noi del CRAP, sulle donne che furono elette nell'Assemblea Costituente. Parliamo del 1946, parliamo di una mostra molto interessante, molto importante, e ti chiedo come è stata concepita, quindi bisogna che ci fai un po' da guida. Ecco. Sì, allora questa mostra è nata perché a livello nazionale il coordinamento donne dell'ANPI nazionale aveva realizzato un libretto con le biografie delle 21 donne, e noi abbiamo pensato che però, oltre ad avere questo libretto da diffondere, era importante, visto che il nostro lavoro come Associazione Culturale Stella Alpina è la presenza nelle scuole, era di realizzare un qualcosa che potesse essere d'aiuto a parlare del ruolo, dell'importanza delle 21 donne che sono state elette. Quindi abbiamo realizzato una mostra, e il testo è esattamente quello redatto dalle biografie ridatte dall'ANPI nazionale, e in collaborazione con l'ANPI nazionale abbiamo detto: vabbè, ma noi pensiamo di fare una mostra integrando le biografie con le fotografie di queste donne e anche con l'introduzione nei pannelli di 21 articoli che abbiamo scelto della Costituzione italiana. Questa mostra ha avuto un riscontro enorme, tant'è che siamo andati in diverse regioni, dal Piemonte alla Lombardia, alla Val d'Aosta, anche nel centro Italia per esempio, e quindi è una mostra molto richiesta, che ha comunque coinvolto anche tantissime scuole. Tanto per fare un esempio, nelle Marche è rimasta giù un mese intero, e in quel mese è girato nelle scuole, nelle biblioteche, ovunque. Quindi è una mostra che sicuramente è importante per ricordare il ruolo delle donne in quel periodo storico importantissimo, e chi erano queste donne, perché bisogna dire che erano di varie estrazione politica, di varie estrazione anche sociale. Ad esempio, tra le 21 donne, 9 erano del Partito Comunista, 9 erano della Democrazia Cristiana, 2 erano socialiste e una del Partito dell'Uomo Qualunque, anche perché bisogna ricordare nel referendum tra monarchia e quel periodo c'era anche il Partito dell'Uomo Qualunque, un partito che è molto vicino ad alcuni partiti attuali, se vogliamo. Ricordiamo che nel 46 appunto non solo furono elette 21 donne nelle elezioni, sì, Monarchia e Repubblica, ma anche per i partecipanti, i membri della Costituente, e che per la prima volta votavano le donne, quindi diciamo, sì, che queste 21 donne erano anche le prime che entravano in una assemblea legislativa. Di fatto, certo. Quindi un avvenimento, certo, Estremamente importante. le belle città date al nemico, fuggi monti super laride montagne, cercando libertà fra rupe rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti. Nelle scuole che impatto ha avuto? Perché è uno strumento didattico fondamentale, sì, certo. Sensazionale direi. Sì, noi le scuole in cui abbiamo portato la mostra, l'attenzione è stata notevole perché poi coinvolgevamo i ragazzi leggendo alcuni pannelli, perché ci sono dei pannelli che portano anche emozione. Faccio un esempio, il pannello dedicato a Teresa Mattei, che era la più giovane delle donne costituenti, ma forse anche di tutta l'assemblea costituente, che aveva solo 25 anni, lei è stata una donna che ha avuto un ruolo importante anche nel difendere i propri diritti, i propri valori, perché lei ad esempio era rimasta incinta da una persona già sposata. Pensate un po' cosa voleva dire per quel periodo una donna che aveva questa situazione. Ma lei è stata molto coraggiosa e a viso aperto ha affrontato anche tutte le critiche che gli erano state rivolte. Ma poi era anche una donna, perché alcune di queste donne erano anche partigiane, sono state anche partigiane. Lei in particolare, durante la liberazione di Firenze, il nome di battaglia era Chicchi, lei ha comandato una compagnia di 50 uomini in prima linea e le viene conferito il titolo di comandante di brigata. Ecco, queste cose qua ai ragazzi erano interessati a conoscere queste pagine. Aggiungiamo anche che nella Repubblica dell'Ossola, in piena guerra nel 1944, quando uno spazio abbastanza grande dell'Ossola è stata liberata, alla donna era già stato assegnato un ruolo da ministro ed era la Gisella Florianini, è stata la prima donna ad avere un ruolo istituzionale. Quindi si può dire che la Resistenza ha anticipato ancora di più quello che è stato poi il diritto conquistato nel 1944. Quindi già nel 44 nella Repubblica dell'Ossola la donna ha avuto un ruolo importante. E c'è stato anche un voto alle donne nella Repubblica dell'Ossola nel 44, quindi ha preceduto anche il suffragio universale del 46, diciamo, giusto? Esatto. Piero, quindi questa mostra voi la fate circolare e quindi si può richiedere alla vostra associazione e anche magari prenotarla, è possibile, vero? È possibile, solo che in questo periodo noi abbiamo mostre in 18 paesi, in questo periodo, che è il periodo diciamo dell'ottantesimo della lotta di liberazione, e abbiamo dovuto farne 3 copie di questa mostra perché in contemporanea non riuscivamo ad accontentare tutte le richieste. Quindi sì, in questo periodo del mese di aprile assolutamente non è disponibile perché è già prenotata in diversi paesi, però sicuramente è disponibile. Noi la forniamo gratuitamente, perché questo, a parte le spese di spedizione o quant'altro, però poi forniamo all'associazione, all'AMPI o chi ne fa richiesta, il catalogo della mostra. Quindi per noi è sufficiente raccogliere delle sottoscrizioni per il catalogo e quindi ci servono per sostenere le spese che a volte dobbiamo affrontare per rifare un pannello oppure per fare altre mostre. Quindi la mostra come mostra viene data gratuitamente. Wanda, Gina, Rina, Rosina, Bruna, Antonia, Elisabetta, la staffetta in bicicletta. Pompa cuore, il sangue ancora, batti cuore, batti nel cuore, la staffetta in bicicletta. Serafina, Alice, Anita, passa il ferro, l'arma, la vita, passa il testimone, che arrivi fino a noi. Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta, questa è la libertà, azione e responsabilità. Guardo i vostri nomi che sanno di bucato, che sanno di un altro paese, di aspirazioni migliori in cui è venuto naturale prendere parte, da che parte stare. Isidonelda, Natalina, Adriana, Stella, Adarmina, la staffetta in bicicletta. Zaira, Alma, Corina, Vincenzina, Desdemona, Lina, la staffetta in bicicletta. Baluardo di civiltà, testimoni d'umanità. Fiori sulle sepolture, cure, cure, per fare guerra alla guerra, dispacci nascosti nei bigodini e poi guanti e maglioni, filati e calzini e nomi di martiri in cornici, arrotolati nelle canne delle bici. Ad Agina Agnese Armida, che scrivete una storia minore di partecipazione. Un litro di latte, un pezzo di pane, un chilo di carbone, tolto al nemico, è fermare l'occupazione. Resistenza, latitanza, corrimi dietro, corri veloce, non dire parole, non dire parole, non dire parole. E non dire parole. Voi che passate il testimone, perché arrivi più avanti, perché arrivi fino a noi, che ancora abbiamo da resistere. Al mostro e le sue fauci sepolte ai nostri piedi, per fermare la guerra, per fermare ogni guerra, insegnateci. Voi madri, figlie, sorelle, compagne dell'umanità, ricordateci. Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta. Questa è la libertà, azione e responsabilità. Voi che di voi dite che non vi sembra d'aver fatto granché. La seconda parte della trasmissione parla sempre con i microfoni di Mariano Moretti, con Luisa Marchini, dei Vignettisti per la Costituzione. Dopo lo stacchetto musicale, a loro la parola. Con Luisa Marchini parliamo dei Vignettisti per la Costituzione, ovvero come nascono e che cosa è accaduto in questo percorso comune di lavoro con questi artisti che sei tu che in qualche modo hai organizzato. Luisa, dimmi, raccontami questa storia. Nel 2016 era in corso il referendum contro la proposta di modifica Renzi-Boschi della Costituzione, e a questo punto mi è venuto l'idea di usare la satira come strumento di lotta. E quindi ho scritto una specie di manifesto invito di Salviamo la Costituzione Bologna, di invito ai vignettisti bravi, meno bravi e in erba di imbracciare le matite e i pennarelli per difendere la Costituzione. E la cosa ha avuto un grande successo, perché nel giro di breve tempo i vignettisti che hanno aderito erano più di 100. Abbiamo fatto moltissime iniziative, non solo pubblicato quotidianamente sulla sola pagina Facebook, parecchie vignette al giorno, ma poi abbiamo fatto una Costituzione illustrata, anzi due per la verità, una collettiva e l'altra che poi è stata pubblicata in estratto dal Fatto Quotidiano, e un'altra invece del grande Roma Arcenaro, che è stata distribuita in varie scuole in tutti i comuni dell'Emilia Romagna, stampata a cura della regione Emilia Romagna. Sicché poi, quando vinto il referendum, cessava la sua funzione la pagina, e abbiamo pensato di non disperdere questo patrimonio, che poi era diventato un patrimonio di amicizie personali, una specie di compagnia. Molti di questi vignettisti non li ho mai visti, ci conosciamo solo per telefono, ma siamo oramai diventati una famiglia. I vignettisti hanno autonomamente deciso di cambiarsi in Vignettisti per la Costituzione sulla base degli l'idea che la Costituzione non solo vada difesa, ma soprattutto andrebbe applicata, cosa che non è mai stata del tutto. E a questo punto hanno pensato di cambiarsi in vignettisti per la Costituzione, e da allora praticamente è diventata una pagina di satira quotidiana che esce non solo su Facebook, ma poi pian piano anche su Instagram X. Poi si sono ripresentati altri referendum, altri motivi di lotta, sempre relativi alla Costituzione, e a questo punto ci siamo posti il problema se ricambiare la ragione sociale e ritornare ad essere vignettisti per il no, e abbiamo deciso che, siccome nel frattempo avevamo acquisito un certo seguito, era meglio creare delle specie di inserti, la prima vignetta della giornata incorniciata con un logo, e abbiamo fatto bene, perché adesso non saremo più vignettisti per il no, ma vignettisti per il sì, per i prossimi referendum. È il caso di annunciare la prossima battaglia a favore dei referendum della CGIL e per spingere le persone ad andare a votare. E quindi Luisa, il sospetto ormai, anzi la certezza, è che questo gruppo è fondamentale, visto che gli attacchi alla Costituzione in un modo o nell'altro si ripetono anno dopo anno, perché sono passati dal 2016 ben 10 anni, ma abbiamo visto certo, che noi non vogliamo le armi. La Costituzione è la fonte del diritto, su cui pacciano le norme giuridiche, di fatti è un testo legislativo scritto, la Costituzione non accetta critiche. Ci sono 139 articoli, bro, di cui 5 sono stati abrogati, però 18 disposizioni e ciotto, quattro sezioni, sono pronto per lo show, show. Principi fondamentali, due, i bro sono tutti uguali, tre, la Repubblica non ha rivali, quattro, disposizioni finali, fai bella prova. E che cosa che è scritta, rigida, una votata, compromissoria, anche democratica, tendenzialmente programmatica, ehi, che cos'è, c'è gusto di questo rap, è la Costituzione, Quanto è efficace quindi la vignetta? Perché proprio hai pensato all'inizio ai vignettisti, Luisa? Ma questa è una vecchia idea che avevo avuto già dal 2006. La vera novità è stato rivolgersi ai social, perché la prima cosa fatta in materia sono state delle cartoline della Costituzione che avevo chiesto appunto a dei famosi vignettisti, addirittura una me la fece sotto gli occhi Dario Fo, un'altra Vauro, insomma nel 2006, per illustrare articoli della Costituzione. Anzi, devo dire che, lo ripeto sempre, diverte sempre tutti, ma non riesco a trovare un editore. Vorrei fare proprio l'album delle figurine della Costituzione. Io sono convinta, e devo dire che parecchi presidi di scuola si sono entusiasmati, le Aldini Valeriani hanno una via della Costituzione al loro interno, con tutti i disegni di Roma Arcenaro, tra l'altro stampati in maniera eccezionale, e poi con anche degli strumenti, dei computer con dentro dei filmati d'epoca e dei documenti, la storia delle costituzioni su supporti quindi informatici. Un'attenzione particolare riponete anche proprio verso le nuove generazioni, che questo certo, certo. Quindi l'idea delle figurine è davvero molto bella proprio. Io vorrei proprio sentire i bambini. Mi dice, se io ti do l'articolo 5 e il 26, tu mi dai il 7 e il 13. Quindi lo scambio di figurine. Io il 27 ce l'ho doppia. Appunto, tra l'altro avrei già i disegni e ho già pensato anche come fare l'album, che l'album, come erano poi gli album vecchi di figurine, dovrebbe avere appunto tutta la Costituzione scritta con il buco per la relativa figurina. Ha fatto un'iniziativa intorno al 25 aprile? Noi in giornate particolari, il 25 aprile, il 2 giugno, la festa del lavoro, il 1 maggio, abbiamo delle pagine più ricche, il 2 agosto, eccetera, in cui oltre alle 5 vignette quotidiane, tanto ne mettiamo un numero molto maggiore, praticamente ogni ora, e le intervalliamo con canzoni della Resistenza, insomma, gli facciamo delle pagine speciali. In quasi 9 anni non abbiamo mai perso una giornata, cioè noi non facciamo neanche la vacanza che fanno i giornalisti il giorno di Natale, Capodanno, eccetera, anzi sono giornate di lavoro maggiore, ecco. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.